Imparo lo Zohar con Rabbi Michael Ben Pesach Pornar. Parte seconda, lezione 25. Questa lezione è una continuazione dello Zohar pagina 6, la colonna di sinistra, frase 23. È noto che nella testa di Ari Chapin di Azilut sono solo due sfirot, Keter e Chochmah, e sono chiamati Ketra, Keter, e Chochmah nascosti, e la sua Binah è apparsa dalla testa di Ari Chapin ed è diventata l'aspetto del corpo. È per così dire solo Vak dove manca il Mochin della testa. Quello è il segreto di Abba che porta Ima fuori e per questo Binah è divisa in due aspetti, Gar e Zat. Nell'ultima frase ho concluso con che nella testa di Ari Chapin del mondo di Azilut ci sono solo due sfirot, dei restanti cinque. Parliamo sempre di cinque, Keter, Chochmah, Binah, Tiferet, Ozerampin e Malkut. Nel mondo Azilut vi era una disposizione specifica, ossia che Keter e Chochmah restano nel loro livello, ma non era permesso per Chochmah di scendere. Ma Binah, Zerampin e Malkut scesero al livello successivo. Hanno creato la possibilità per un inferiore di salire. La parte inferiore del superiore scese all'inferiore. Questa era una disposizione speciale da sopra. La parte inferiore del superiore significa che i tre sfirot più bassi dei cinque in cima cadono sotto e questo accade in ogni livello, in ogni mondo o in ogni sfirà. Keter e Chochmah restano sopra e i tre più bassi cadono in un livello inferiore. Se un inferiore ha il potere dentro e vede la parte inferiore del superiore, avrà il desiderio di portarsi in accordo con il superiore, e questo dà all'inferiore del superiore la possibilità di tornare al suo proprio posto, sta significando al suo livello superiore. Poiché la parte inferiore del superiore è stata giù prima che egli possa vedere la connessione tra la parte superiore dell'inferiore con la parte inferiore del superiore, pertanto la parte inferiore del superiore può ritornare al suo livello, ai suoi due rimanenti sfirot, e diventare cinque, perché prende con sé la parte superiore dell'inferiore. C'è una legge spirituale. Quando un superiore va a un inferiore, diventa come l'inferiore. E quando un inferiore ha costruito la forza e va al superiore, anche per una frazione di secondo, e tu sai che non c'è scomparsa nello spirituale, lui sente la connessione con il superiore. Questo è un principio molto importante, quindi poni questo principio nel tuo cuore. Se due oggetti hanno qualcosa in comune, di quel che hanno in comune è correlato, è da dire che ciò che hanno in comune è in unità. Ogni cosa in questo mondo riguarda di portare l'unità, portare unità nella tua situazione personale, nelle correzioni dell'umanità e dell'universo. Se le incoerenze sono con te, è grandioso, perché è un buon punto di partenza, che significa che ora puoi sforzarti per il superiore per portare le incoerenze all'unità. Solo nel superiore puoi portare le incoerenze all'unità, ricordalo. Non dire che tutto va bene, ma portati a un certo livello. Vieni alla realizzazione che un pavimento differisce da un soffitto. Quello che voglio dire è questo. Dovresti sempre avere una certa situazione, una certa forza riguardo a una questione particolare. Ci sono tre fasi nello sviluppo spirituale. Come bene in un livello inferiore, considerando un livello superiore, ma dove o qual è l'inizio? Innanzitutto c'è una certa situazione. Il come o cosa non importa. Il caso è che se non puoi vedere le incoerenze, devi sapere che ci sono persone che non hanno idea di incoerenze, si sentono sicure, felici, intere, perché non ci sono incoerenze. Questa è una fase inferiore di una determinata situazione. Quindi l'inizio è che uno non può vedere le incoerenze in una determinata situazione. Ricordalo bene, le persone che non riescono a vedere le incoerenze in una determinata situazione sono in qualche modo un pochino ingenue. Per loro non c'è più o meno. Tutto è uno, mentre tu sai che l'intera creazione è creata con polarità o dualità. Questo è un dato di fatto e quando uno non può vedere le incoerenze, questo è il primo passo, portarsi fuori dalle pie illusioni, fuori dal sentimento sicuro perché c'è polarità-dualità. È una legge naturale come luce e oscurità. Così hai bisogno di aprire gli occhi e realizzare che c'è l'incoerenza. Ora puoi lavorare e portarli all'unità su un livello superiore, vale a dire che porti il superiore del tuo livello inferiore in connessione con il livello inferiore del superiore. È chiaro? La fase successiva è che otterrai più intuito. Vedi le polarità o dualità come giorno e notte, luce e oscurità. Ricorda che la polarità-dualità è in ogni situazione. Anche quando pensi che la situazione sia perfetta, sappi che c'è polarità-dualità. Cosa fare? Quello che vedi come positivo lo porta il tuo lato destro, che è il lato di Chassadim, la misericordia, e quello che vedi come negativo lo porta il tuo lato sinistro di Din, severità. In ogni situazione c'è misericordia e severità. È chiaro? Quando hai questa realizzazione, sta significando che vedi due lati in una certa situazione. Ti sei portato ad un altro punto di vista e quello è buono. Questa è già una correzione enorme. Ti sei portato fuori dal pensiero ingenuo che ogni cosa va bene, perché ora sai che c'è polarità-dualità, destra e sinistra. Quando riconosci che c'è destra e sinistra, puoi portare le incoerenze a un livello superiore, dove diventano una cosa sola. Come? Inizia con cosa è più semplice per te. Scegli un'incoerenza minore, riconosci i punti più e meno e guarda ciò che hanno in comune. Sappi che c'è sempre qualcosa che è comune. Proprio come c'è polarità, dualità, c'è comunanza, ma devi trovarla. In ogni situazione c'è polarità, dualità e c'è comunanza. Com'è possibile questo? Supponiamo che qualcuno ti abbia offeso e la tua prima reazione è di ignorarlo. Chiudi gli occhi e rimani ingenuo. Ma come ci si sente? Apri gli occhi significa costruire un po' di forza e inizi a lavorare con il lato destro e sinistro. E improvvisamente noti di essere nel mezzo e il mezzo ti porta a un livello superiore, al livello superiore. L'intero significato è che ricevi la linea nel mezzo. Solo nella linea di mezzo è la vera realtà. Hai lavorato con la forza della severità e hai lavorato con la forza della misericordia, e quello ti ha portato nel mezzo, che significa il matrimonio tra Chokmah e Chassadim. Questa è la vera realtà, che ti dà la salvezza qualunque sia la situazione. Qual è il significato della salvezza? È salvezza perché è la vera realtà. In quel momento puoi sperimentare questa realtà e continuare con la tua vita. Nel primo paragrafo ha detto che Keter e Chokmah sono rimasti sopra e la parte inferiore scese. Per questo l'inferiore ora può svegliarsi per il superiore ed essere sullo stesso livello con la parte inferiore del superiore. E come conseguenza il superiore solleva la sua parte inferiore e allo stesso tempo anche la parte dell'inferiore sale. Nel mondo Azilut due Sfirot rimangono sopra e Binah è appena sotto la testa. La testa è Keter e Chokmah, come forse saprai. Una volta che qualcosa esce dalla testa, o nel nostro esempio appena sotto la testa, significa che arriva nel corpo. C'è una domanda: quale luce irradia nel corpo? La luce Chassadim irradia nel corpo. Metti questo nel tuo cuore perché è buono se lo conosci. Quando tutti e cinque gli scomparti sono pieni, significa che sono nella testa di Chokmah. Nel corpo dove sono i Chassadim sono Chesed, Gvura e Tiferet. La parte più bassa è nella Nukva con gli Sfirot di Netzach, Hod e Malkut, e hanno bisogno di Chassadim accompagnati da un po' di splendore di Chokmah. Ricorda che c'è sempre la necessità di un piccolo Chokmah. Nukva o Malkut riceve i Chassadim provenienti da Zerampin, accompagnati da un piccolo splendore di Chokmah, proveniente da Binah, e Binah li riceve da Abba il Padre. Nella Nukva ci sono due lati. La destra ha Chassadim, che proviene da Zerampin, e la sinistra che riceve da Chokmah e Binah. Binah è venuta dalla testa al corpo, e sai già che quando un superiore va all'inferiore, diventa come l'inferiore. È da dire quando la testa va al corpo, si comporterà come il corpo. Continuiamo. L'ultima frase ci dice che Binah era divisa in due, cioè in Gar, tre Sfirot superiori. Binah ha 10 Sfirot, Keter, Chokmah e Binah. Tutti e tre hanno 10 Sfirot, Zerampin ha 7 Sfirot. Binah è divisa in Gar, tre Sfirot superiori e 7 Sfirot inferiori. Basta leggere e avere la Kavanah giusta, poi l'esperienza sarà la tua parte. Gradualmente verrà a te. Basta leggere e realizzare che questo apprendimento sulla famiglia divina è molto profondo. Il motivo è che il danno della carenza dei mochin della testa non hanno assolutamente influenzato il Gar di Binah, perché lei è solo luce Hasadim dell'essenza della sua esistenza nei 10 Sfirot della luce diretta. Il motivo è che il danno della carenza dei mochin, la luce, ciò che è nella testa, è chiamato mochin. Il motivo è che il danno della carenza dei mochin, la luce, ciò che è nella testa, è chiamato mochin. La luce che non è entrata in un kli è chiamata or, parola ebraica per luce, ma quando la luce è entrata in un kli è chiamato mochin. Perché questo nome? Il significato della parola mochin è vedere e deriva dalla parola moach, che significa cranio, cervello. Nella testa c'è un campo di elettricità e in un modo ciò è anche un tipo di luce, quindi mochin, la luce che è entrata in un kli dalla testa, non ha assolutamente influenzato il Gar di Binah. Significa che i 3 Sfirot superiori non la toccano, perché Binah è venuta sotto al corpo. Cosa vuole spiegare qui? Dice che Binah è venuta dalla testa giù sotto dove sta Chassadim. Nella testa Binah ha ricevuto Chochmah, ma ora, da quando è scesa la prima reazione, è quello di dire che ha solo Chassadim e nessun Chochmah. Ma ci dice che, sebbene c'è la mancanza di Chochmah, non danneggia i suoi 3 Sfirot superiori. Come mai? La risposta è che i 3 Sfirot superiori di Binah sono l'aspetto di dare. Ricorda che la forza dei 3 Sfirot superiori di Binah è la qualità di dare. C'è solo dare, quindi lei non ha alcun danno. Se non c'è bisogno di qualcosa, non c'è mancanza. Hai capito? Ma quando c'è il desiderio per qualcosa, c'è mancanza. E uno può sentirsi danneggiato a causa della mancanza di qualcosa. Chiaro? Binah è la qualità di dare, quindi non ci pensa di essere sotto. Si sente comoda ovunque si trovi. In un certo modo, questo è un grande vantaggio della qualità del dare. Ovunque lei è, lei può dare. In un certo modo dare è facile e non ha bisogno di molta attenzione. Si può dare da sopra sotto come quanto si desidera. Dalla testa sotto non c'è limite nel dare. Ma Chochmah è qualcosa di diverso. La luce Chochmah può scendere solo attraverso la linea di mezzo. Non c'è piacere nel portare la luce giù attraverso la linea sinistra. Può darsi che tu abbia piacere, ma alla fine sarai deluso. Ti sentirai miserabile perché se porti giù Chochmah attraverso la linea sinistra, il tuo Chochmah si indebolirà. E questo sarà la causa fino alla venuta del Messia. Che cosa intendi con fino alla venuta del Messia? All'umanità sono dati 6.000 anni per l'esistenza del mondo, 6.000 anni per le correzioni, e questo non significa solo 6.000 anni di calendario. Ogni anno ha una certa correzione, e in ogni essere umano ci sono 6.000 anni, ma noi che stiamo imparando la Kabbalah, il nostro obiettivo è di assicurare le nostre correzioni. È per dire che vogliamo arrivare al traguardo il prima possibile. Vogliamo essere i primi e ovviamente alla fine ognuno raggiungerà il traguardo. Ogni uomo ha il suo libero arbitrio e può scegliere se vuole finire prima o dopo. Ma quando il Messia è qui, impareremo di più, ma per ora si paziente. Questa non è la risposta che voglio dare. Guarda attentamente nel corso di base e troverai la tua risposta. I primi sfirot di Binah sono Keter, Chochmah e Binah, e possono essere sia sopra che sotto. Chassadim può essere ovunque, ma non la luce di Chochmah. Ci dice che i tre sfirot superiori di Binah non sono danneggiate anche se lei è scesa. Perché lei è solo luce Chassadim, Binah e luce di misericordia, dell'essenza della sua esistenza nei 10 sfirot della luce diretta. Prima che i mondi fossero creati, la luce Ein Sof si trasmutava, o in altre parole, l'Ein Sof è Ein Sof, immutabile, perché non c'è scomparsa nello spirituale. Prima c'era Ein Sof e in seguito si è circondato da grossolanità, irruvidimento e quello scese. Prima c'erano i 10 sfirot della luce diretta e lui aggiustò le forze in modo che potessero entrare nella creazione futura. In questi 10 sfirot della luce diretta c'erano già le qualità dei 5 sfirot sviluppati dalla luce stessa. Keter ha tutto e dà semplicemente. Chochmah riceve dalla luce Keter. Pertanto lui è l'inizio della forza ricevente e la luce Chochmah si diffonde ulteriormente giù. Quella è la forza di Chochmah. La forza di Binah è di dare resistenza, di resistere e limitare la luce. Qual è il significato più profondo di resistenza? In un certo modo la resistenza significa che c'è molto di Chassadim e Zeranpin ha la forza di Binah. In un certo modo Chassadim, la misericordia, significa accendere la luce. Cos'è la misericordia? Cos'è Chassadim? Sempre quando si porta la luce su e non giù, dare è portare qualcosa sopra e non tenerla per te. E dire che se restringi la luce, qualcosa della luce viene a te, e quel qualcosa è la luce di Chassadim, non di Chochmah. Perché no? Sappi che è sufficiente per noi avere la luce dei Chassadim, ma ovviamente c'è la necessità di Chochmah, ma non proprio Chochmah, perché quello è molto pericoloso. Questo è ciò che impari dalla Kabbalah. Mai attirare il puro Chochmah di sotto, perché questo causerà distruzione. Prima c'è la distruzione di te stesso. Ricorda che non è buono portare giù il puro Chochmah. Non ci è stato dato. Qui ci dice che l'essenza di Binah è di limitare la luce. Qui l'essenza è di limitare la luce prima che possa entrare nella creazione. Significa prima che la creazione abbia luogo. Lei ha aggiunto la qualità di dare. Ricorda che la qualità di Binah è di dare. Pertanto lei è chiamata Elohim. So di aver già detto che Elohim è nella linea sinistra e Chassadim è nella linea di destra. Separati dal tuo pensiero terreno e accetta questa contraddizione. Certo, i Chassadim sono nella linea destra. Lei non vuole riceverli. Chassadim, la misericordia, è la forza della restrizione. So che è difficile da capire. Per te è difficile da capire perché ci sono anche troppe varietà dentro di te. Gradualmente le varietà diminuiranno. Fammi provare a chiarirlo per te. Prima cosa, hai bisogno di portare tutti i desideri sopra. Significa che devi portarli al lato dei chassadim, anche i tuoi desideri più grezzi. Hai bisogno di portarli dal lato di chassadim, dal lato del dare. Più si può fare questo, lentamente gocce piene della forza di ricevere cadranno su di te. Naturalmente la luce Chokhmah è presente. Non si può vivere senza la luce Chokhmah, ma non troppo. Capito? Prima cosa, porta tutti i tuoi desideri dal lato destro, dal lato dei chassadim. Misericordia, chiaro? Se tu potessi fare questo, questo solo ti darà una grande risposta. Non provare solo a dare. Ciò che intendo è questo. Forse dai, sebbene senti che non è giusto. C'è qualcosa. Questo è facile per fare diversamente e più difficile. Ma devi sapere, anche se non hai la forza di fare, altrimenti non nasconderti. È per dire che questo momento è buono e quando hai abbastanza forza lo fai diversamente. Ama sempre te stesso. È facile iniziare con la correzione dei desideri più piccoli. Questo viene fatto di proposito, così hai il sentimento che puoi farlo e quelli che sono più duri sono per dopo. Hai capito? Li metti da parte e più tardi, quando hai la forza, li raccogli e lavori con loro. Chiaro? Più ti correggi, più facile diventa. Significa che stai costruendo la forza. Così diventa più facile per te iniziare con uno più duro. Alla fine hai abbastanza forza per portare tutti i tuoi desideri a Binah, al lato di Chassadim, misericordia. Questo è il primo passo, ricordalo. Qualunque sia il desiderio, hai bisogno di portarlo a Binah. Non nasconderti, sii fedele a te stesso e sii onesto, altrimenti ostacolerai il tuo percorso verso la libertà. Quello che intendo è questo. Forse c'è qualcosa dentro di te che vuoi ignorare. Mai, e davvero intendo mai, ignorare ciò che è dentro, perché quello è un suicidio. Tutto ciò che devi fare è portarti in accordo con Binah. Chiaro? Qualunque siano i tuoi pensieri, qualunque sia il tuo egoismo, ti mostra di portarlo a Binah. Perché questo è così importante? Una volta che hai portato il tuo desiderio a Binah, il passo successivo è un po' di splendore di Chokhmah. Quindi non nascondere nulla. Cosa succederà se nascondi ancora qualcosa? Si intende che non l'hai portato a Binah. Quindi ci sarà solo Chokhmah senza Binah. E quello è terribile. La vita ti colpirà. Ti senti sbattuto e in un certo modo lo è. Solo Chokhmah ti ucciderà, quindi qualunque cosa sia ciò che è dentro, portalo a Binah, chiaro? Questo è importante e sai che Binah è ovunque. È Chassadim, misericordia. Binah uscì dalla testa e i suoi primi tre Sfirot non sono stati danneggiati. I primi tre possono scendere e non hanno danni. Lascia che sia lo stesso con te. Pertanto porta i tuoi desideri a Binah per costruire la misericordia. Se puoi farlo, tutti i tuoi desideri possono bere dal pozzo che si chiama misericordia. Ed è molto meglio del puro Chokhmah, ma hai bisogno di tutti i tuoi punti di forza per portare ogni desiderio a Binah. Un essere umano può essere pigro, testardo, o sente ancora parlare il suo egoismo, quindi nasconde alcuni desideri. Ma quella non è la via d'uscita. Vuoi sopravvivere? Vuoi vivere? Porta qualunque sia il desiderio e prima inizia con piccoli desideri, portali a Binah. Lavora sodo perché ogni desiderio che rimane senza Binah non ha vita, è morto. Parlo a te, c'è solo una persona, tu. Hai già imparato una volta che l'inferiore che va al superiore diventa come il superiore. Ricorda questa legge spirituale. Il superiore, il tuo superiore, è Binah, misericordia, Chassadim, e lei può essere ovunque perché non sarà mai danneggiata. Chiaro? Binah può salire e lei può scendere. Naturalmente, quando lei scende, qui la forza sarà minore, ma non sarà danneggiata. Più puoi portarlo a Binah, al superiore, e più fine sarà quello, e più fine sarà, e quello significa che dopo può entrare un po' di splendore di Chochmah. E quello è il sentiero per la correzione. Il Creatore l'ha creato in questo modo. E lui ha fatto questo per tutti noi, senza eccezione. È chiaro? Questo è quello che dice. Tre sfirot di Binah hanno solo la forza di Chassadim. La sua radice sta nei 10 sfirot della luce diretta, Or Yashar. Ora guarda cosa ci dice in questa frase. E in questa luce non c'è alcuna differenza tra il rimanere nella testa o tra il rimanere nel corpo, perché brilla sempre in modo uniforme. Quindi anche l'uscita di Binah dalla testa non ha ridotto qui l'aspetto di Gar e Mochin della testa. Quindi si sono separati dal Gar della Binah separatamente per se stessi e sono diventati un parzuf del superiore Abba e Ima, che sono considerati come l'aspetto di Gar, nonostante il fatto che sono permanenti dalla bocca e sotto di Ari Kampin. E in questa luce di misericordia, di dare, e in questa luce non c'è alcun cambiamento, assolutamente no. La misericordia non cambia, né se è nella testa di un parzuf di tre sfirot, né nel corpo. Chiaro? In ogni parzuf, in ogni 10 sfirot, qualunque sia la condizione, ci sono tre posti. In ogni situazione c'è la riflessione di 10 sfirot, testa, busto e gambe. Ci dice che Binah, che è la luce Chassadim, per lei non ha importanza. Non fa differenza né se la Binah è nella testa, nel busto o sotto, ed è grandioso perché se puoi andare a Binah è da sapere che porti i tuoi desideri a Binah. Sebbene più vicina a te, lei è meno potente di Chochmah, ma se potessi andare da lei e connetterti con la sua compassione, quanto sarebbe meraviglioso. Ciò significa che in ogni situazione hai Chassadim, e quello non sarebbe grandioso? È scritto nei Salmi, gli angeli ti porteranno sulle loro ali. Ali intende Chassadim, misericordia o compassione. C'è un'altra frase, ossia camminare sulle acque. E questo ha lo stesso significato, cioè non entrare nel puro Chochmah, ma si cammina con Chassadim, con misericordia. L'acqua è una metafora per un fondo morbido. Sperimenterai un fondo morbido proprio come i cuscini d'aria. Dolcemente e delicatamente, invece della pietra che è dura. E tu lo sai, se cadi su una pietra ti farai male, ma non se cadi su un cuscino d'aria. Quindi prova ad essere come Binah in ogni situazione. Ascolta e leggi attentamente. Quello che stai leggendo non è venuto da me, lo trasmetto, ma tu hai bisogno di lavorare, è chiaro? Questa è una frase importante, mettila nel tuo cuore e lavora con essa. L'altro principio è come posso giustificare questa situazione. Qualunque sia la situazione, sappi che non ci sono eccezioni. Usa questo principio. Qualunque sia la situazione, non importa da dove provenga, poni sempre questa domanda: come posso giustificare questa situazione? Poni questo principio nel tuo cuore e lascialo stare lì fino all'arrivo del Messia, perché poi i punti di forza saranno visibili. I punti di forza non li discutiamo ora, perché non ci viene dato. Significa che devono rimanere invisibili. Gradualmente aumenterai il tuo grado e ciò che vedi lì diventerà per te visibile. Non abbiate fretta, andate piano e ricorda questo. Va bene se non comprendi qualcosa. Se c'è qualcosa che non puoi capire, di a te stesso, giustifico quello che non so. Tante situazioni connesse con te, con la tua famiglia, con il mondo, possono essere negative, positive, puoi vincere, puoi perdere, ma qualunque cosa sia, giustifica sempre. Non importa quale sia la situazione, non affrontarla mai nella tua parte inferiore, nella tua parte più bassa dei tuoi 10 sfirot, perché quello non è il luogo per affrontare. Tuttavia hai bisogno di sapere che la tua vita è nella tua parte inferiore, nella parte di Malkut, Yesod, Hod e Netzach, eppure potrebbe non esserci il confronto perché in questa zona il dominio di Malkut è enorme. Qui ci sono i punti di forza pesanti, quindi non hanno mai un confronto in questo posto. Se lo fai sarai sempre deluso, come mai? Questa è solo una parte della verità, una parte della realtà. Prima di tutto costruisci forza per andare dalla tua parte inferiore a sopra. La situazione non ha importanza e questo vale anche per l'esuberanza. Supponiamo che tu vinca 10 milioni, non reagire troppo esuberante, perché ti spezzerai. È bello, meraviglioso, ma prima di reagire con esuberanza, portalo di sopra, a Binah, e fai il tuo parzuf più piccolo. È per dire che la tua esperienza della situazione sarà piena con Binah, con Hassadim. È chiaro? Una volta che hai Hassadim, puoi guardare con occhi diversi alla situazione. Hai bisogno di sapere qualunque sia la situazione. Binah o Hassadim sono necessari. Binah di Hassadim è l'aspetto del dare. E non stiamo parlando di denaro, non sta significando il denaro. Si tratta di ciò che è dentro di te. Pertanto prima vai da Binah e poi reagisci, capito? Supponi di essere irritato. Mai reagire o prendere decisioni quando sei irritato. Crea la tua propria mappa e di ad esempio. È interessante, ma risponderò più tardi. Ancora una volta la quarta frase. alla luce di Chasadim non c'è cambiamento o differenza tra l'essere nella testa o nel corpo. Se puoi andare su a Binah, non importa la situazione, potrebbe essere qualcuno che è morto o hai vinto la lotteria. Se puoi andare a Binah, allora non importa se sei felice o triste. Ovviamente c'è felicità o tristezza, ma è mescolato con misericordia, compassione. Chiaro? Qualunque cosa accada, vai a Binah e Binah ti correggerà. Qual è la correzione? Puoi vederlo nella giusta prospettiva. Ora continuiamo. Perché lui, la luce Chasadim, addirittura brilla, irradia sempre. Quindi anche quando lui è uscito dalla Binah fuori della testa, lei non è stata diminuita dal suo aspetto, dal suo gar, i suoi primi tre sfirot. Non è diventata di meno a causa di questa azione e dalla luce della testa, lei divenne l'inferiore del corpo, e tuttavia non divenne di meno. E da lì si separarono i primi tre sfirot di Binah per loro stessi. Si separarono significa che divennero indipendenti. E divenne un parzuf, non una sfirà, perché quella è solo una emanazione. Ma da una sfirà sono diventati tutte 10 di sfirot anche nella larghezza, e ciò significa parzuf. I tre sfirot superiori di Binah sono arrivati nel mondo. Azilut è diventato parzuf 2. Cosa era necessario? In un certo modo un parzuf è già grande perché c'è destra, sinistra, il mezzo, eccetera. E questi tre sfirot sono diventati due parzuf di 10 sfirot, spazio. Nel principio solo una sfirà era un punto e ora è diventata un intero parzuf, spazio. Per questo motivo il mondo Azilut è chiamato il mondo della correzione. Vale a dire c'è spazio per costruire Kelim, chiaro? Più spazio c'è, più luce può essere sperimentata. Un buon esempio è la luce di una lampada. Supponiamo che hai una piccola stanza in cui la luce splende. È sufficiente perché la stanza è piccola, ma quando la stanza diventa più grande, la luce sarebbe meno. Chiaro? È fatto in questo modo che nel mondo Azilut c'è posto per costruire più Kelim. Ciò che prima era una sfirà è ora diventato un parzuf, 10 sfirot, destra, sinistra, eccetera. Quindi è difficile per la luce entrare, è per dire che non c'è più forza per sperimentare la luce. Ricorda che hai bisogno prima della forza, prima di poter sperimentare la luce. Per sperimentare il bene è necessario che tu sia pronto a sperimentare il bene. Capito? Ora i tre sfirot superiori di Azilut sono diventati due parzuf. Il superiore Abba e Ima, padre e madre, sono ora considerati in tutti i 10 sfirot di Binah, come Gar, tre sfirot superiori. L'intera esistenza ha 10 sfirot. Considerando Binah, deve essere vista come Gar, e in Gar c'è Chasadim, misericordia o compassione. Ricorda questo. La qualità di Abba e Ima è Chasadim. Questo si applica per Abba? Quello che voglio dire è questo. Insieme hanno Chasadim. Naturalmente hanno anche Chokmah, ma non usano Chokmah per se stessi. Fanno uso di Chokmah perché ogni cosa ha maschio e femmina, ma per loro stessi non hanno bisogno di Chokmah. E l'inferiore, Zerampin e Malkut, che hanno bisogno di Chokmah e devono chiedere per Chokmah tramite il loro Man. E quando questo accade, Abba e Ima ritornano ad Arikampin, alla testa in cui è Keter e Chokmah. Si paziente, verrà. Verrà l'intero Zohar. Parla di questo argomento. Vanno su e a causa di questo prendono l'intera scala con loro. Quando questo accade, ricevono il vero Chokmah da Arikampin e lo portano giù. Il puro Chokmah non può scendere, ma quando è mescolato con Binah è buono. Lentamente, nessuna preoccupazione se non c'è comprensione. All'inizio anche io non avevo comprensione. Per anni non sono riuscito a capire o sentire e non c'era nessuno che potesse insegnarmi. Avevo sofferto molto perché non potevo sentire e per via della mia sofferenza, la sofferenza e il dolore sono grandi, non cercare la sofferenza o il dolore. Ma devi sapere che il dolore o la sofferenza sono Kelim. Non si può senza sofferenza o dolore, ma il fatto è non cercare e non ignorare. È così com'è. Quando c'è dolore o sofferenza, sappi che è parte della costruzione di un Kli. Capito? Questa è la Kabbalah. Senza sofferenza o dolore non puoi costruire i Kelim. E hai bisogno di Kelim per sperimentare la luce. È chiaro? So che la scuola in America dice il contrario, ma voglio dirti la verità. Dicono che grazie alla Kabbalah diventi più ricco e più felice. E ovviamente questo è vero. Ma dimenticano di dirti che la sofferenza e il dolore sono l'ingrediente principale di quella ricchezza e felicità. Non posso mentire, quindi un sacco di studenti stanno lasciando. Non voglio sentire questo. Pensano che sia un pochino pazzo quando dico che devono abbracciare il dolore o la sofferenza. Dai, Michael, essi dicono, non vogliono sentire la verità e anche quello va bene. Ma quando dico che devono abbracciare il dolore e la sofferenza, intendo che il dolore e la sofferenza sono ingredienti dei Kelim, e senza i Kelim uno non può sperimentare la luce. Lascia che ti faccia un esempio. Ti ricordi quando ti sei innamorato? Tu eri preparato a fare ogni cosa. Ora ti innamori della tua anima. Se puoi innamorarti della tua anima, sei preparato a sopportare qualsiasi cosa. Non è grandioso. Il dolore è necessario per scoprire nuovi strati che sono nascosti dentro la tua anima. Un altro esempio. Prima eri come una roccia, per superare una pietra è necessario una forza eccessiva, ma gradualmente la pietra diventa morbida, come il calcare, che significa meno forza è necessaria per approfondire e più forza hanno gli strati per raggiungere la tua anima che è diventata come il calcare. Il dolore è come mancanza? Esattamente, l'esperienza di mancanza e in quella mancanza è nascosto il salvataggio. Metti questo nel tuo cuore, se ti manca la carenza, resti in uno stato vegetativo. Continuiamo. Sono diventati Parzufim, Abba e Ima. In questo puoi vedere che i tre Sfirot sono diventati due Parzufim. Significa che hanno guadagnato spazio. Esattamente lo stesso con noi. Se inizi a lavorare su te stesso, significa che accetti il dolore e ripulisci. e un nuovo spazio interiore sorge. Prima c'era una piccola sfera con un piccolo splendore e ora hai guadagnato spazio, spazio all'interno di te, e quello è eccezionale. Prima stavi tagliando una roccia dura e ora la roccia è diventata calcare, è diventata più trasparente e più sottile, e per questo puoi guardare attraverso la pietra e vedere cosa c'è dietro il muro. E finalmente passi attraverso il muro. Com'è eccitante! Nella storia di Yeshua si dice che uno che non credeva voleva mettere un dito nel suo corpo, voleva sapere se era vero, e anche questo è spirituale. Uno non può capire perché nello spirituale non si sente se un muro è scomparso. Il muro è sparito, e quella è la differenza con coloro che credono o no. Questo non è il momento giusto per parlarne, ma per me è arrivato il Messia. Non ci sono ancora parole, e può essere che ti sarà data l'esperienza, così puoi notare anche che il Messia è qui. Egli è qui, è già sceso, ma aspetta noi aprire i nostri occhi. Ed è perciò che tu sei qui, perché stai leggendo questo, per aprire i tuoi occhi, per costruire i chassadim, la compassione e l'amore di vedere un giorno il Messia che è qui. Il tuo primo passo è la costruzione della compassione e amore. Non c'è altro modo, e una volta che puoi fare questo, sarai in grado di incontrare il Messia. Forse allungherai il dito per toccarlo, ma ora, con tutta la fede che hai dentro, con tutto l'amore e la compassione, tu hai detto: il Messia è arrivato. Non c'è mai stata una generazione che potesse dire questo. Tutti muoiono, anche grandi rabbini e maestri di Kabbalah, ma prima che lo spirito dell'uomo fa la transizione, il suo corpo, che si è già arreso, in quel momento può vedere chiaramente. Sei già senza un corpo fisico, lui vede il primo uomo. Come mai? Lui va a casa. A causa della sua sofferenza, il suo corpo si arrende e ritorna ad Adam, il primo uomo. Più tardi, quando sarà il tempo, imparerai, è tutto scritto nello Zohar. Recentemente un grande rabbino è morto, e questo rabbino aveva imparato la Kabbalah e aveva studenti che erano sul suo letto di morte, e poco prima di avere il suo ultimo respiro, le sue forze fisiche erano già andate, significa che era stato liberato dal suo corpo. Così lui poteva vedere, e i suoi studenti chiesero a lui: «Cosa vedi, Rabbi?» E lui rispose: «Il Messia è già qui». Non conoscevo molto bene quest'uomo, ma ha confermato ciò che già sapevo, che il Messia è qui. La differenza è che lui ha dovuto lasciare il suo corpo per vedere il Messia, mentre noi che stiamo imparando la Kabbalah abbiamo l'opportunità di vedere il Messia mentre siamo nel nostro corpo. Sono l'ultimo che direbbe che ho fatto tutte le mie correzioni. Non lo so, ma sto imparando lo Zohar, e per quello, se lo Zohar mi sta mostrando il Messia, è da dire, per mezzo dello Zohar posso liberarmi dell'egoismo, dall'interesse, posso liberarmi dall'egoismo, dall'interesse personale, e quando morirò non avrò alcun gusto per il materiale perché è già andato. Tante persone che stanno morendo sono ancora preoccupate per il materiale, ma per me, e spero che sarà lo stesso per te che stai leggendo questo, non ha significato. Puoi comprenderlo? Di nuovo, il Messia è già qui. Hai solo bisogno di aprire i tuoi occhi. Non è grandioso? Lui non si manifesta a tutti, perché due oggetti spirituali possono solo incontrarsi l'un l'altro se sono sullo stesso livello. È chiaro? Non si tratta solo di aprire gli occhi. C'è di più, significa che devi portare tutti i tuoi desideri a Binah. Non importa dove tu sei o quali sono i tuoi desideri. Devi portarli a Binah, e portarli a Binah significa rinunciare al tuo egoismo e tutte le assunzioni che hai. Io amo questo, amo quello, amo solo il Creatore. Portalo al tuo Creatore e se puoi fare quello, liberi te stesso. E inoltre non ci sarà spazio per l'egoismo. E quello ti fa vedere il tuo Messia. Qual è il tuo Messia? Nessuno può vederlo, nemmeno tu, ma puoi vedere lui e puoi vedere te stesso e per dire che vedi il tuo liberatore e con lui diventi uno. Pertanto, con assoluta certezza, posso dire che il Messia è qui. Io lo so nel profondo, dentro il mio cuore, ma mi mancano le parole per spiegarlo. Lo pongo solo nel tuo grembo, ma aspetta te prenderlo e lavorare con esso. Così tu puoi vedere il Messia. Chiaro? Lavora su te stesso e abbi fede. Allora i veli scompariranno. Nessuno può farlo per te. Devi farlo per te stesso, dentro i tuoi kelim, dentro il tuo campo di consapevolezza e dentro il tuo campo di coscienza. Lo vedrai nei tuoi kelim, puoi vederlo e non nella storia. La liberazione giace nelle tue mani. Shalom.